spesso quando tengo questi percorsi che mi dicono, ma a me viene più spontaneo, no, rivolgermi agli altri quando gli dico possa tu essere in pace, possa tu essere in salute, lontano dai pericoli. Questo non è che va male, va bene, però il fatto di non riuscire a rivolgerlo a noi stessi è un qualcosa su cui riflettere. Non voglio utilizzare la parola è un problema, perché non lo è fondamentalmente, ma è una qualcosa su cui riflettere, no? Cioè il fatto di essere così prodighi verso gli altri, così in grado di dare proprio aiuto, benessere, anche pensieri buoni, ma verso se stessi si incontrano degli ostacoli. Ecco, è una riflessione. Come mai ci sono degli ostacoli? Come mai si fa così fatica a rivolgersi a se stessi e dire possa io stare bene, possa io essere in salute? Ok? Come abbiamo detto l'altra volta, potrebbero sorgere degli ostacoli come non me lo merito, non sono in grado, non sono capace, eccetera, eccetera. E quindi ecco, portarlo come riflessione intanto e poi continuare a coltivare fino a quando non sentiamo che è come se si liberasse un canale, diciamo, no? A un certo punto rivolgo verso me stesso questo augurio, questo auspicio, e perché non è un'imposizione. Abbiamo detto, ecco, venendo in qua, pensavo a quanto importante è la formula che usiamo, no? Che io possa o possa io, no? Questa formula molto possibilista, molto aperta anche, ecco. Secondo me è proprio fondamentale che non ci azzardiamo mai a dire devi essere felice oppure sii felice, perché sono cose che creano attrito anche di per sé, no? Perché quelle sì tirano fuori le parti peggiori a volte. Quindi la possibilità di darci una via di serenità e pace, quindi con grande tranquillità, con grande essere possibilisti, insomma, penso sia una buona cosa. Allora, cominciamo con una pratica lunga, faremo una pratica di quelle alternate, eccetera, per finire in una pratica di metta. Ecco, quando si comincia a lavorare, questa sera sarà tutto laboratorio, naturalmente, non è che possiamo coltivare in una sera una di queste qualità, sarà tutto laboratorio, però ci predisponiamo al meglio per questo laboratorio, perché vi chiederò di fare magari degli esperimenti un pochino difficili, quindi non ci proviamo, magari, e vediamo come va a finire. Allora ci stendiamo in Shavasana, intanto facciamo un po' di rilassamento e poi seguite la pratica come viene. Che approcciare a là non lo farei così di brutto, mi avvicinerei per gradi, poi ne parliamo. Okay. Bene, prendiamoci un po' di tempo. Proviamo così. Puoi anche metterti di fianco se vuoi, sì, pronto. Anche su un fianco se possibile. Allora, cerchiamo una posizione che ci dia un minimo di agio, se c'è possibile. Quindi prendiamoci tutto il tempo che ci serve, eh? In questo minimo di agio cerchiamo di trovare una modalità che ci permetta di prendere un po' di contatto col nostro corpo, sia che questo contatto sia un po' difficoltoso, sia che ci troviamo già da subito abbastanza rilassati. Qualche respiro più profondo, cercando di fare in modo che la respirazione ci aiuti a fare due cose fondamentali: ad distanziarci un po' da tutto il contenuto della giornata, quindi con l'idea di lasciare andare un po' la giornata, e l'altro con l'idea di rilassare un po' il corpo per quello che c'è possibile, provare a rilassare. Come sempre osserviamo i punti un po' più delicati e cerchiamo di lasciare andare le tensioni, se c'è possibile. Quindi quando espiriamo, proviamo proprio a rilassare, lasciare andare. L'espirazione un po' ci aiuta ad ammorbidire, ad allontanare pensieri. Quindi quando espiro lascio andare. Ed osservando il corpo cerco di portare l'attenzione laddove necessito di più. Magari con qualche contrazione, qualche tensione, qualche dolore. Cerco di rimanere vicino al punto che più il mio corpo richiama ed espirando cerco di lasciare andare, cerco di abbandonare. Potrei avere le spalle un po' contratte, una tensione al volto o alla testa, potrei sentire il ventre un po' compresso, un peso al torace, la schiena contratta. Avvicino la mente e provo ad attenuare un po', ad attenuare, espiro. Piano mi accorgerò che un po' il mio corpo si rilassa, riesce a lasciare andare le tensioni, o completamente o in parte. Quindi espirando mi aiuto a lasciare un po' andare. La pratica del rilassamento è un prendersi cura di se stessi. Troppo spesso lasciamo che il nostro corpo sia un po' trascurato. Questi sono i momenti in cui ci prendiamo cura del nostro corpo. Lo diamo un po' per scontato. È uno strumento che ci accompagna per tutta la vita. Quindi va rispettato, accudito. In questi momenti ci prendiamo cura del nostro corpo, cercando di rilassare, cercando di sciogliere, per quanto c'è possibile, ogni tensione, ogni contrazione. Osserviamo con cura tutto il nostro corpo, dai piedi fino alla testa, e se incontriamo qualche tensione proviamo a scioglierla, ad attenuarla. con grande volontà, ma anche con una certa gentilezza. Osserviamo il corpo e cerchiamo di abbandonare, di lasciare andare. Se anche dovessimo avvertire un po' di distrazione, va bene così, non è un problema. Cerchiamo semplicemente di tornare con costanza a rilassare il corpo, a lasciare andare ogni tensione. Ed ora lentamente cerchiamo di riprendere contatto con il nostro corpo. Torniamo a fare dei piccoli movimenti con le estremità, come siamo soliti fare, per i piedi, per le mani, e tutto in modo molto lento, senza fretta, riprendendo contatto col corpo. Torniamo piano piano a riabitarlo fino a quando sentiamo che possiamo riaprire gli occhi. Solo allora, dopo aver preso contatto con l'ambiente circostante, possiamo rimetterci seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco per non danneggiare la schiena. Senza perdere compattezza, ci alziamo i piedi, cercando di non farci distrarre da movimenti, da pensieri. Ci mettiamo coi piedi sul legno, non sopra il tappetino, in modo da sentire bene il contatto della pianta del piede con il legno. Facciamo qualche breve esercizio di respirazione. Le ginocchia sono lievemente piegate per scaricare la schiena, quindi quando piego leggermente le ginocchia il bacino ruota un po' in avanti, un pochino in avanti. Le braccia sono lungo i fianchi, lasciamole proprio andare giù. Facciamo il solito esercizio di respirazione, quindi inspiro e porto le braccia di fronte al torace ed espirando lascio che scendano. Non ricordate, guardate pure, io lo sto facendo, quindi inspiro fino davanti al torace, poi espiro e porto in basso di nuovo. Di nuovo inspiro ed espiro. Ognuno con il suo ritmo. Possiamo anche chiudere gli occhi per non farci influenzare dal ritmo dei nostri compagni. Pensate di essere immersi nell'acqua, quindi i vostri movimenti sono lenti, armoniosi. Lasciamo andare le braccia lungo i fianchi. Ora, sempre ad occhi chiusi, lasciamo lentamente che il capo scenda in avanti fino a quando il mento tocca quasi il torace, lo tocca. Dobbiamo sentire piano piano che il nostro collo si allunga un pochino nella parte posteriore. Lentamente accompagnandoci con il respiro. Poi torniamo su, sempre lentamente, accompagnandoci con il respiro. E poi torniamo giù, lentamente. Quando espiro, scendo un altro po'. Quando espiro, scendo un altro po'. Fino a quando il mento tocca la parte superiore del torace. Quando il mento tocca la parte superiore del torace, rimango lì per qualche momento, inspirando ed espirando. E poi torno su. Sempre lentamente. Lo facciamo ancora una volta, ognuno con il suo ritmo, lento ed ascoltando bene il corpo, le spalle, il collo che si allunga un po'. Torniamo su per l'ultima volta. Apriamo un po' i polmoni, quindi mettiamo le mani sulle spalle ed inspirando apriamo. Ed espirando chiudiamo. Di nuovo. Aprendo bene il torace e giù, e buttando fuori tutta l'aria, tutto. Inspiro e riempio bene i polmoni, riempio tutti. E quando espiro, fuori tutta l'aria, fino in fondo, strizzo un po' anche il ventre. Ultimo, inspiro. Espiro, fuori tutto, fino in fondo non deve venire niente. Braccia lungo i fianchi. Il corpo potrebbe essersi un po' scaldato, ascolto, rimango in ascolto. Rimango a contatto con il mio respiro. Poi lentamente, mantenendo sempre questa compattezza, ci mettiamo seduti nella nostra posizione di meditazione. Lentamente, facciamo tutto lentamente. diamoci il tempo necessario per sistemare il corpo, i vestiti, in modo da vivere un po' di immobilità. E poi piano piano, lentamente, senza alcuna fretta, iniziamo una breve pratica di respiro corpo, come ormai siamo soliti fare. Cercando di trovare pace, concentrazione, di attenuare la mente abitata sempre da pensieri e emozioni, cercando proprio di trovare un nostro centro, un centro di consapevolezza, di benessere, per questi minuti di pratica assieme. Ed ora pratichiamo un po' di gentilezza amorevole verso noi stessi. Quindi, se abbiamo raggiunto uno stato di armonia interiore, di silenzio, se sentiamo di essere in una buona pratica, possiamo rivolgerci l'augurio di metta, di gentilezza amorevole. E possiamo farlo dicendo: possa io essere in pace. possa essere in salute e lontano da ogni pericolo. Possa io vivere serenamente. Utilizziamo una di queste frasi, o possiamo anche farci ispirare un augurio che ci permetta di essere in armonia, in pace con noi stessi. Questo stesso augurio lo rivolgiamo ai nostri compagni di viaggio, a questo gruppo che si è unito per fare un tratto di sentiero assieme nella ricerca di una maggiore consapevolezza, di un maggiore equilibrio in se stessi e verso gli altri. E quindi auguriamo col cuore a tutto il gruppo di vivere in pace, serenamente, di essere in armonia, ognuno per proprio conto, ascoltando bene cosa il cuore gli dice di fare. Fare un augurio a questo gruppo. infine torniamo al nostro respiro. Torniamo a contattare il ritmo del nostro respiro, cercando di ascoltarci e di sentire come stiamo in questa pratica. E rimaniamo per un po' così in silenzio, fino a quando non vi richiamerò. Piano piano, lentamente, iniziamo a riaffiorare. Riprendiamo contatto con il corpo, torniamo a sentire il corpo. E quando sentiamo che è il momento adatto, riapriamo pure gli occhi, senza fretta. Facciamo un feedback un po' particolare. Vi chiedo di pensare ad una parola sola che raccoglie un po' quello che avete sentito in questa pratica, e quindi diremo una sola parola. Quello che ci viene in mente, credo qualsiasi sia, quella la prima che appare, che vi pare che possa raccogliere un po' la pratica. Come sempre, se non sentiamo di dover condividere, basta che diciamo passo. Ok? Cominciamo da qui. Passo. Passo. Accoglienza. Accoglienza. Gentilezza. Gentilezza. Pace. Pace. Serenità. Serenità. Profondità. Profondità. Malessere. Malessere. Ricarica. Ricarica. Passo. Passo. Accettazione. Accettazione. Consapevolezza. Consapevolezza. Felicità. Partiamo con i due Brahma Vihara centrali, diciamo, quelli che un po' sono centrali rispetto ai quattro Brahma Vihara. Sono quelli che di solito vengono un po' trascurati. C'è una luce. E un po', diciamo, perché per questo percorso così ristretto, anche se le ore sono sempre quelle, anch'io li trascuro un po' perché li metto assieme, mi sarebbero trattati separati, ma insomma va bene così. Karuna e Mudita sono in qualche modo le due antitesi rispetto alla gentilezza amorevole. In che senso? Karuna è quella qualità che, come abbiamo detto l'altra volta, è il coltivare la compassione verso una persona che sta poco bene, che ha un po' di sofferenza, e verso se stessi nel momento in cui noi siamo i protagonisti di questo malessere, che può essere un malessere mentale, emotivo, ma anche, assolutamente, anche fisico. Quindi, insomma, soprattutto se abbiamo un problema fisico, un problema mentale, è brutto da dire, insomma. Ha un disagio, qualche ansia, oppure delle emozioni che ci assillano, no? Capita, insomma, le pressioni sono sempre tante in questo nostro strano pianeta abitato più che altro da essere strani, no? Biperi e con un supposto cervello. Allora, mentre Mudita è, ho detto, la gioia come partecipe, cioè gioire della nostra gioia, quindi in noi si può veramente scaturire una grande gioia, ma è molto verso il fuori Mudita, perché se già gioiamo, insomma, è più di così, insomma, diventa euforia poi, no? Mentre il gioire della gioia degli altri, quindi il fare in modo che l'altro si senta accolto dalla nostra gioia, e anzi questa gioia si cresca ancora di più, come monti, come la panna, no? Questi sono un po' i due, diciamo così, sono i lati in qualche modo di quella che è la gentilezza amorevole, che invece è questo canale che un po' prende tutto. E stasera faremo degli esperimenti, perché di esperimenti trattasi. Vi leggo, magari, perché mi pare che sia anche utile leggere una parte di Karuna e di Mudita, ma sostanzialmente è quello che vi ho detto. Significa compassione, pura compassione, infinita e senza limiti. Esistono molti tipi di compassione. Se il nostro prossimo o i nostri cari soffrono, in noi nasce la compassione spontaneamente. Incominciamo a condividere la loro miseria, il loro stare male, il loro dolore, a causa dell'effetto che nutriamo per loro, l'affetto. Cioè, l'affetto che nutriamo per loro apre in maniera spontanea, non c'è neanche da pensarci. Immagino, non so, la mamma con un figlio, un fratello, una sorella, un genitore che sta poco bene. Questa cosa, se c'è un buon rapporto alla base, naturalmente, sorge spontaneamente, non occorre star lì a pensarci. Abbiamo detto che la difficoltà è nel momento in cui la rivolgiamo a una persona o sconosciuta, o abbiamo chiamato una persona difficile. Ma se a soffrire qualcun altro, per il quale non abbiamo attaccamento, allora non sentiamo la compassione e non sentiamo quindi la sua miseria, il suo dolore e sofferenza, e non la sentiamo come nostra. Quindi ci viene proprio difficile il cum patire, cioè il patire con, il sentire questa sofferenza su di noi. Ma questa non è Karuna, perché Karuna è infinita compassione. Similmente, se le persone a noi care sono felici, parlando ora di vita, e fortunate, ci sentiamo felici per loro a causa del nostro affetto. Anche questo non è mudita gioia compartecipe, perché la gioia compartecipe è infinita, come lo è Karuna. Anzi, nel caso di mudita, così come nel caso di Karuna, quando non sorge perché è un sentimento radicato nell'ignoranza. Allora, non andiamo molto a spiegare questa questione, ma l'ignoranza non si intende mai nei testi spirituali il non sapere qualcosa, è il non sapere riferito al mondo dello spirito. Abbiamo detto molte volte che siamo tutt'uno, no? E questo tutt'uno dovrebbe muovere in maniera spontanea proprio questa. Se io sapessi, non sapessi cognitivamente, ma io sentissi, ecco meglio, se io sentissi già di essere un tutt'uno con tutto il resto del creato, sentirei anche il dolore, giusto? Ma queste barriere mentali, emotive, che hanno la loro ragione d'essere, non è sbagliato che ci siano, perché non saremmo in grado di sopportare tutto questo dolore, tutta questa sofferenza, no? Molti maestri lo scrivono nei loro testi, che quando giungono queste iniziazioni, queste aperture di cuore, subito rimangono sbarellati perché avvertono di colpo tutte le gioie o tutte le sofferenze delle persone che hanno attorno, ma non le avvertono cognitivamente, non è che capiscono che stanno male, le sentono come se entrassero in loro. Capite che è molto difficile da gestire. Ecco perché il percorso spirituale ha delle tappe. Queste tappe non sono solo messe lì così, ma sono messe lì perché altrimenti, se di colpo si aprissero tutte queste tappe, si dice che impazziremmo o moriremmo anche, no? Perché il nostro organismo non sarebbe in grado di sopportare tutta questa cosa. Già quando un nostro caro sta male, ha sofferenza, ma anche un disagio mentale, in noi c'è pesantezza, c'è difficoltà, facciamo fatica noi, che dovremmo dare un aiuto, a volte ci sentiamo così presi che noi stessi entriamo in uno stato di disagio, no? Quindi figurarsi se fosse aperto a tutti, insomma, sarebbe incomprensibile, inconcepibile e soprattutto insostenibile. Ecco, quindi proveremo a fare questi due esperimenti. Il primo esperimento, e poi faremo il feedback, sarà su Karuna, però lo faremo con una persona sconosciuta. Ok? Che ci è indifferente. E si tratta solo di ascoltare in noi cosa si muove con una persona indifferente. Quindi, semplicemente faremo questa prova. Vi chiedo già quindi di immaginare una persona sconosciuta. Sconosciuta non vuol dire, come faccio se non la conosco? Sconosciuta nel senso che me la invento. No, una persona che incrociavo magari una volta a settimana, due volte, non so, io adesso mi viene in mente che ogni tanto faccio la spesa e c'è una ragazza alla cassa e quella ragazza là, insomma, gli avrò detto buongiorno, buonasera 8 volte negli ultimi 6 mesi, no? Quindi quella è una persona sconosciuta, cioè la conosco nelle sembianze, ma non so chi è, più del buongiorno, buonasera e questo è il resto. Ma non ti rimanda niente. Come? Cioè, anche se non la conosci, non ti rimanda nessuna cosa. Perché sì, io non conosco delle persone, ma mi rimandano delle certo, cose. Certo, certo, ma ciò che mi rimandano non è in qualche maniera l'aver conosciuto come altre persone in cui si ha un rapporto aperto, ci si conosce da tanti anni, ci si è confrontati magari su tante cose. Quindi il rimando potrebbe essere una mia suggestione a cui affidarmi o non affidarmi, cioè, oppure potrebbe essere anche vera, ma se non c'è mai stato un confronto diretto è difficile che possa essere reale in tutti i termini, insomma, ecco. Però sì, ci sono persone che ci rimandano sicuramente più, con le quali sentiamo anche una maggiore o minore sintonia anche semplicemente senza aver mai scambiato una parola. Questo sì, sicuramente, sicuramente. Quindi avete pensato a una persona che indifferente è brutto come termine, perché quello che uso anche sconosciuto, cioè, perché indifferente nel senso che non c'è un legame emotivo di una qualche qualità. Bene, facciamo questa pratica. Vi guiderò prima in una pratica di respiro corpo, come sempre, vi accompagno io fino al punto di incontrare questa persona. Quindi seguite abbastanza bene la cosa. E lo faremo chiaramente con Karuna. Quindi se questa persona che è indifferente, non sapete se sta male o se sta bene, però se ne avete anche incrociata qualcuna che quella mattina o quel giorno vi pareva un po' a disagio, meglio ancora. Ma noi immaginiamo che abbia qualche disagio, qualche piccola ansia, e vorremmo aiutare. E vorremmo aiutare. È abbastanza chiaro per tutti? Cosa? Sì. Abbastanza chiaro per tutti, sì. Ok. Allora, per adesso non pensiamo a nulla, stiamo solo un po' sulla nostra pratica di respiro corpo. Quindi prendiamo posizione. Qualche respiro più profondo, cerchiamo di lasciare andare i pensieri. La parte iniziale delle pratiche è sempre un prendere contatto con se stessi. Siamo sempre lontani, abbastanza lontani da noi stessi. Quindi il primo atto è quello di radicarci. Lo possiamo fare semplicemente contattando il corpo, osservando come sta, oppure nel modo più semplice, che è quello di seguire il ritmo del respiro. Rimaniamo un po' sul respiro e sul corpo, quindi cerchiamo proprio di trovare il radicamento. Se la pratica precedente ci ha dato un po' di benessere, ci ha aiutato un po' a centrarci, possiamo anche provare a ricontattare quello stato d'essere, quel benessere che ci ha dato la prima pratica. Se invece nella prima pratica abbiamo trovato qualche ostacolo, sentito un po' di sofferenza, cerchiamo di trovare ora un po' di equilibrio, un po' di armonia, e come siamo soliti farlo, lo facciamo attraverso il respiro, attraverso il contatto con il corpo. Il respiro si fa un po' più profondo. possiamo portare la nostra attenzione e rievocare una persona. Una persona che incrociamo qualche volta nella nostra vita di tutti i giorni. La vediamo, magari scambiamo due parole. Ma è una persona che fondamentalmente non conosciamo. Possiamo immaginare che questa persona abbia avuto o abbia tuttora qualche difficoltà, qualche disagio. Qualche sofferenza. E quindi proviamo ad inviare con il cuore un augurio, un auspicio, perché possa risollevarsi da questo eventuale momento di difficoltà, di disagio, di dispiacere. E mantenendo la persona nella mente possiamo inviare questo messaggio: possa tu essere in salute, possa tu essere lontano da ogni pericolo. Possa tu vivere felicemente. Possa tu prenderti cura di te stesso. Ascoltiamo qual è l'effetto di queste frasi pronunciate nei riguardi di questa persona. Anche una sola, che possiamo ripetere rivolta a questa persona con il cuore. Possa tu essere in salute. Possa tu essere lontano da ogni pericolo. Possa tu vivere felicemente. Possa tu prenderti cura di te stesso. fine torniamo al nostro respiro, lasciando andare questi auguri, accontentandoci da questa persona, lasciandola andare, e torniamo ad ascoltare il nostro corpo, il nostro respiro, cercando di avvertire la qualità, come stiamo, cosa sentiamo in questo momento dopo aver fatto questo tipo di pratica. Come siamo soliti fare, prendiamo contatto col corpo, torniamo a sentirlo fino a quando possiamo riaprire gli occhi. Accendi la luce. Un feedback più strutturato, prendo chi vuole, come sempre, non c'è alcun obbligo. Prova a condividere quello che sono state le sue sensazioni, come si è sentito, che cosa è capitato, come al solito, però stavolta con questo, coltivando questo granoliano. Partiamo stata qua stavolta. Ho provato rispetto alla pratica di rivolgere verso di me le intenzioni, adesso provando a rivolgere verso questa persona neutra, la sensazione è molto affievolita. Molto affievolita. Sì. Certo, certo, certo. È una sensazione positiva, però non ha questa, diciamo, questa energia che ha invece se la rivolgo a me o magari a una persona cara. Sì. Come sempre vi ho detto che si tratta di sperimentare per capire il grado e la situazione che viviamo nei confronti di questa, di pratiche di questo. Ma io all'incontrario trovo più gioia nel dare che fanno per me. Diciamo che io col lavoro che faccio conosco abbastanza persone, però ho concentrato su una persona che in questo momento sta vivendo veramente una situazione difficile. Mancato il padre e fa fatica veramente a... E concentrandomi su questa persona... Caruna è venuta fuori bella potente. Sì, sono riuscito, ma poi questo... Anche tutti i giorni nei confronti delle persone che trovo per strada, quelli che conosco per il mio lavoro, ma qualsiasi persona che incontro, dico quella persona lì che vive male, che quella che c'è quel sentire, no? C'è un'attrazione o una repulsione, ma la repulsione non... Una volta forse avevo più questo sentimento, adesso invece faccio fatica a trovare persone che mi diano repulsione, anche quelli che ti danno, sai, questi momenti così che ti creano un disagio, che poi dici perché ti creano questo disagio? Allora li elabori e poi vedi che dici ma allora il problema ce l'avevo io. Ma questa difficoltà, non difficoltà, questa maggior facilità verso l'altro che verso se stesso, hai provato a pensarla, a indagarla o per te è naturale? Naturale, perché forse per me sono già pieno di mio. Ah, ok. Allora mi resta solo da dare. Da dare. Ok, grazie. A me è piaciuto molto pensare di dare qualcosa a questa persona neutra. Nello stesso tempo ho pensato che se tu fai l'esercizio con altre persone magari è arrivata anche a me questa pensiero, no? Ah, sì. Tu o altre persone e io non lo so, certo. Può essere, può ma essere. No. E mi piacerebbe molto che qualcuno lo facesse nei miei confronti, o forse l'hanno anche fatto, certo. Non so. Anche perché l'altra persona non la conosciamo così bene, da sapere se magari sta già coltivando una sua pratica, no? Esatto. Quindi è una sensazione positiva sicuramente. Mentre un momento in cui mi sono distratta, andava via il pensiero, io ho detto se la prossima volta farà l'esercizio con una persona difficile, io starò sempre. E continuavo a pensarlo. Però vedi, di solito la persona... E non mi andava via. Perché di solito la persona è indifferente, è meno catalizzante e quindi certo. È più facile che la mente vada su cose più che abbiano più grip in qualche modo, no? Questo può capitare. Mentre l'altra volta che l'hai detto, che l'hai tutta la scaletta e quindi c'era anche questa possibilità, mi sentivo predisposta a farlo subito, probabilmente l'ho anche fatto giovedì scorso, certo. Oh, stavolta no, ho detto stavolta si è innescato un meccanismo. Ok, grazie. Io mi ritrovo nelle ultime parole che ho detto adesso, ovvero che credo che la mia attenzione abbia un po' fluttuato, provava ad attaccarsi però con facilità si staccava. Sì. Credo di aver fatto un po' di fatica come, certo. Proprio per essere lì. In un momento credo di essermi immaginato che lei mi ringraziasse. Ecco. Ho trovato una forte piacevolezza. Ecco. Sono gratitudine, insomma. Sì. Non saprei dire però. È un buon metodo, nel senso che ci dà in qualche maniera una motivazione, no? Perché se lo facciamo tanto per farlo, è facile che la mente proprio fluttui, anzi, proprio è naturale che succeda questo. Io immagino, perché chiaramente non lo sono, scusate, che un maestro è realizzato e quindi è in quello stato d'essere, per cui che sia una persona difficile, indifferente o un caro, il suo grado di propagare, di donare questa energia d'amore sia equiparabile, equiparato. Quindi io immagino che per noi non ci sia nessun problema, invece si vive questa situazione ad esempio con una persona sconosciuta o poco conosciuta, proprio perché non si ha questo gancio dall'altra parte. Se invece tu gli dici, beh, io immaginato che ringraziasse, allora lì è più facile che per noi venga in qualche maniera più spontaneo donare, no? In qualche maniera. Però perché lui mi ha ringraziato, cioè ho creato un gancio emotivo. Farlo per farlo è più difficile. Però teoricamente, così come ci spiegano i testi, il Brahmavihara è un donare senza, se non è amore, no? Senza avere nulla in cambio, o pretendere nulla in cambio. Però siamo umani, quindi ci stiamo sperimentando. Grazie. Io ho capito già dall'inizio che sono molto lontana dai maestri, che già faccio fatica a mantenere l'attenzione sui pensieri di me, sugli altri un po' di più, però nel momento in cui lo faccio ci sono, lo sento e quindi penso che è bello, che è una cosa bella. Sì, lo è. Esatto. Anche perché la persona indifferente, se vuoi, indifferente è che è scritto così, a me non piace. È poco conosciuta. Poco conosciuta o sconosciuta, è molto facile che per noi diventi solo qualcuno che mi risolve un problema, no? Se sono al supermercato mi deve fare il conto in fretta, se sono alle poste mi deve fare mandare via il bollettino in fretta. Cioè, va bene, non sto dicendo, stiamo per pensare sempre di essere i fratelli cattivi di Gengis Khan. Cioè, sono queste persone che fanno il loro lavoro e che a noi servono. Però ogni tanto mettersi in questa condizione ce le fa vedere come persone, come anime in cammino, quanto noi, che con le quali non condividiamo praticamente nulla, ma che anche loro stanno facendo i loro passi per, no? E questo, secondo me, alza quel livello di sentire ciò che sente l'altro, che a mio avviso è molto importante. Invece prima, quando tu hai detto di augurare i nostri compagni di viaggio, sì, io ho sentito veramente energia potente. Certo, certo, certo. Era fatto con questo intento, insomma, stiamo insieme da un po' di tempo, stiamo condividendo cose importanti, quindi è probabile che in quel momento il grado di energia sia stato magari molto più caldo, no? Molto più sentito, molto più... E adesso ne sperimentiamo un altro. Di fondo c'è sempre quello che vi dico dall'inizio, non alimentiamo l'autogiudizio, cioè prima ho fatto bene, adesso ho fatto male, sono stupidaggini. E quello che cerchiamo di fare è prendere contatto con ciò che siamo realmente, non quello che ci raccontiamo o che raccontiamo agli altri. Quando siamo così in silenzio, centrati, avvertiamo la differenza di qualità e sappiamo che siamo quelli, e su quello lavoriamo se ci va, se no facciamo a meno. Ok? Grazie. Io ho qualche difficoltà appunto di praticare questo tipo di vita. Sì. Mi è capitato anche durante la settimana, ho fatto tanta fatica. Hai praticato metta durante la settimana? Sì. Quindi possa essere in pace, rivolta verso te stessa. Sì, ci sono uscita molto poco. Molto, molto poco. Cosa si innescava a livello di ostacolo, chiamiamolo? Allora, da un lato c'era proprio la grande voglia di dirselo, di dirmelo. Perché in un certo qual modo sentivo la necessità e la voglia proprio. Sì, il desiderio di... Esattamente. E, dall'altra parte però anche il fatto di dire sei egoista, spostati, perché effettivamente c'è qualcun altro che ha più bisogno di te. Certo, certo. Per cui ho fatto veramente tanta, certo, tanta fatica. Perché poi allora mi subentrava un senso d'ansia terrificante, e addirittura andando in apnea non respirando più, certo, ed è un po' quello che è capitato anche adesso, sì, nel senso che questa sera pensavo ad una persona che effettivamente conosco di vista, così, e ad un certo punto è come se fosse subentrato il fatto di vedere tante altre persone sì, che mi chiedessero la stessa identica cosa. Certo. E io non ce la faccio stare dietro a tutte quante. Certo. Però. Certo. E sono andata nuovamente in ansia. Certo. E quindi a quel punto ho detto, Fedi, basta, fermati, torna a respirare nuovamente. Bravissima, bravissima. Altrimenti. No, no, l'hai fatto perfettamente. C'è sempre una gradualità. Allora, la gradualità com'è? Respiro corpo. Lì, per quello che abbiamo fatto due mesi prima, lì, fin tanto che non mi sento a mio agio, continuo a praticare quella. Il respiro corpo è l'ancora di salvezza. Quell'ancora, che è importantissimo che sia ben consolidata, e quasi, passatemi il termine che non è proprio giusto, ma quasi automatica, quasi deve essere un click, in modo che esplorando altre parti di me, tu stai come tutti, stiamo esplorando altre parti di noi, se queste parti vanno in disequilibrio o in disagio, io faccio un passo indietro, mollo tutto e sto nel respiro corpo. Quanto più il respiro corpo, mi seguite su questa cosa, sì, no? Quanto più il respiro corpo è ben ancorato, ben consolidato, tanto più io farò un click, click, torno al respiro, tutto il resto sparisce. Se invece non l'ho ancora ben consolidato, quando mi trovo in quella situazione in cui sento l'ansia che sorge, faccio più fatica, e allora devo fare avanti e indietro, provare, e magari apro anche gli occhi o mi disunisco e faccio dell'altro. Ma se io riesco a fare quella pratica lì, ben consolidata, posso esplorare altre parti. Che cosa vuol dire esplorare? Quando io mi dico possa io essere in pace e in me sorge una parte, cominciamo a chiamarla così, una parte che mi dice non te lo meriti o sei troppo egoista perché gli altri hanno più bisogno di te, e ora è inutile che vi dico è una parte di noi ma non è tutto noi che fa questo tipo di reazione, semplicemente cadiamo in una sorta di ansia. E quindi per ora è inutile ragionare, riflettere o fare altri tipi di discorsi. Facciamo un passo indietro e torniamo nel respiro corpo. E poi piano piano proviamo di nuovo. Possa io essere in pace, possa io essere in salute, possa io stare serena. Ok? Piano piano questa condizione si apre perché, abbiamo detto molte volte, finché noi non siamo in completo equilibrio, che cosa vuol dire equilibrio? Il primo equilibrio che raggiungiamo nel respiro corpo, cioè la base, shamatha, mindfulness. Quella mindfulness che dice di non giudicare, quella mindfulness che dice di stare in equilibrio, di stare un po' compatti nella propria consapevolezza, stare con quello che c'è. E poi esploriamo, ecco perché è un corso un po' più avanzato, esploriamo quelle parti di noi che potrebbero reagire. Qualcuno no, qualcuno sì, qualcuno in certi giorni no, qualcuno in certi giorni sì. Cioè la stessa persona a volte reagisce in maniera un po' differente alla stessa pratica. Magari ci può essere il giorno in cui tu ti senti veramente un po' più serena, eccetera, in cui alla parola, alla frase possa io essere in pace con me stessa, si sblocca tutto. In quel momento senti proprio uno sblocco. Dici, oh, me lo merito di stare in pace. Posso stare in pace, perché se non sono in pace io, non potrò mai portare pace fuori. Ok? Grazie. Allora, se sono in questo stato di meditazione, l'altro diventa, sento l'umanità dell'altro, sì. Sento assolutamente che è sbagliato, che sento l'umanità e quindi lo sento come se fossi io. Certo, c'è una connessione diretta, diciamo, se si può dire. Quindi questo, diciamo che questo tipo di augurio sorge quasi spontaneo, insomma. Sì, perché sì, lo sento proprio come me. Certo, certo. Bene, grazie. A me è salito il torpore. Il torpore? Eccolo. Sono partito abbastanza, diciamo, carico. Sì, sì, sì. Avevo ben in mente l'immagine della persona, però la sensazione era pacifica, come quando ti addormenti, no? Che sei sereno. Sì, sì, sì, sì, certo. Però ho cominciato a dire... un po' la stanchezza. Sì, penso sia anche un po' tutta la stanchezza. Infatti vorrei proprio riprovarlo nella giornata. Sì, certo. Però appunto quello che ho provato. È più che normale, nel senso che soprattutto se la persona è veramente distante, diciamo così, o molto sconosciuta, di cui ho il volto, magari quel giorno l'ho vista un po' corrucciata, ma chissà cosa era successo, magari aveva litigato con un collega dell'ufficio, adesso, però non so niente di lei, quindi è facile che proprio come si diceva prima c'è questo abbassamento di questa energia, no? Il canale dove sgorga questa cosa è più stretto e quindi semplicemente la mente mi parte e impartendomi magari poi sorge il torpore perché proprio c'è una nebbia davanti, ma è naturale, naturalissimo. Cioè è proprio sperimentazione questa. Come vi ho sempre chiesto, stiamo tanto sul respiro corpo perché lì dobbiamo consolidarci. Poi se vediamo che queste pratiche già dall'inizio mettono in moto qualcosa di buono, inseriamole sempre. Se invece c'è un po' di difficoltà, magari quando ci sentiamo un po' più in forza, le proviamo, le testiamo e vediamo a che punto siamo. Ecco, grazie. Difficoltà, quindi come hai appena detto, sì, sono partita anch'io abbastanza bene, però è durato pochissimo. Certo. Perché sì, ecco. Non riesco, no, non riesco a immaginare, ecco. Così come dicevano anche loro, sì, era già difficoltoso pensare a me, augurare a me qualcosa per l'altro, ho detto sì, ce la fai, bravo, la sentivo, sì, ma... Ecco, l'importante è che non sorga l'autogiudizio, cioè non sono in grado, non sono capace, queste cose lasciamole perdere. Semplicemente siamo in uno stato tale per cui la persona poco conosciuta per noi è difficile in questo momento mettersi in contatto, non si apre questo canale, ma va benissimo. Ho riprovato, però non ho più, certo, sentito quella che allora stiamo sul respiro. Stiamo sul respiro corpo, magari coltiviamo meta verso noi stessi. Questo volevo dire, certo. Infatti sono tornata su di me, ho detto va, forse ho più bisogno. Benissimo, benissimo, ok, grazie. Grazie. Sì, non è stato semplice puntare l'attenzione, ho individuato una persona, però ho detto probabilmente sto imparando un altro canale per portare qualcosa a qualcuno e... Sì. Magari sì, posso essere felice di questo, certo, e nel tempo stesso mi chiedevo se questa persona in quel momento sta sentendo qualcosa. No, però no, se poi no, è vero che tutti siamo uno, sì, torna anche a me, quindi ok. Non mi spingerei così lontano, diciamo. No, dai, infatti, però è mio sogno questa domanda. Risanare a distanza è una cosa che verrà un po' più avanti, diciamo. Faremo un corso apposta. Però mi è sorta questa domanda. Sì. Ci vorrebbe un corso di sciamanesimo, allora, e anche diciamo, che la guarigione a distanza, magari. Si possono fare, ci sono delle pratiche interessanti per la guarigione a distanza. E sempre nella pratica meditativa ci sono. Veramente molto interessanti, si fanno altri in triadi, si fanno. Comunque ecco, mi è venuto questo pensiero, no, certo. Diverso, insomma. Scusa, triadi come il triathlon? No, di essere tre praticanti, no, si deve formare un triangolo, cioè chi guida il gruppo e chi sta male. Grazie. Per me è stato molto più semplice di mettere, in realtà, è stato molto più immediato, più diretto e molto leggero anche, devo dire la verità. Ho trovato anch'io, ho peregrinato un po' nel capire chi potevo scegliere, perché poi anch'io vedo tanta gente tutto il giorno, bastano tutti i mali miei, quindi già partivo dal presupposto che per cui sapevo già, quindi ho preso una cassiera, una ragazzina giovane che vedo raramente, insomma, ma la vedo ogni tanto, è stato abbastanza semplice e dopo un po' secondo me era a posto e quindi ho detto sì, ok. Va bene così, lasciamo andare. Però è stato molto più leggero. Leggero. Se posso chiederti come mai più leggero rispetto a me attraverso te stesso? Perché io sono più giudicante su di me, quindi lei non conoscendola, non sono partita da nessun presupposto. Certo. Che certo. Probabilmente sì, se stava male non era un male così. No, certo. Ok, quindi probabilmente invece con me fino a stamattina in realtà non era. Invece già stamattina sono stata molto più ben predisposta. Ho fatto anche un lavoro poi questa settimana, visto che non riuscivo proprio a mettermi in contatto zero, anzi diventava quasi un mantra e quindi cercavo poi di uscire da questa routine. Certo. Stamattina e stasera è stato molto meglio, infatti la parola accogliente è proprio questo, che sono riuscita a essere più convincente con me. Bene, grazie. Ecco, lavoriamo molto sul metta verso noi stessi, cioè il sentirsi in pace con se stessi è una meta per alcuni, no? Per tutti penso, perché essere totalmente pacifici e in pace con se stessi tutta la giornata è difficile, scatta per tutti qualche momento di autogiudizio, di disagio, eccetera. Però lavoriamo tanto su metta, perché metta è un carburante potentissimo. Cioè, nel momento in cui ci si sente veramente in armonia con sé, bene, si riesce realmente ad aiutare gli altri. E in tutti gli altri casi siamo costretti ad andare in carenza di energia, perché diamo aiuto, ma siamo già noi che avremo bisogno di aiuto. Non so se mi spiego. Sì, sì. A me ha dato molta tranquillità e spensieratezza, a differenza di quando invece lavoro a me stesso, in cui inizialmente parto che sento il carico delle aspettative che mi irrigidisce e pian piano inizio ad immaginarmi tutte le sfide che mi possono succedere, quindi inizio a portarmi sfida da solo, ecco. Inizio a sabotare, inizio a sabotare, questo è. Beh, allora io direi che potresti inviare metta al tuo te sabotatore, ok? Quella parte di te che ti sta cercando di sabotare, proprio augurami di stare in pace, di stare tranquillo, ok? Ma questo tentativo, vedrai che funziona, a meno che non esca fuori qualche altra caratteristica. Esce una famiglia. Piano piano lavori con tutti, no? Assagioli parla di queste tante subpersonalità che ci abitano, no? Sono, noi parliamo sempre di una personalità, invece non c'è una personalità. Sarebbe già tanto che avessimo una personalità, perché allora avremmo un rapporto col nostro sé superiore diretto. Invece purtroppo, se non voglio mettervi ansia, in noi abitano tante subpersonalità che di volta in volta coinvolgiamo, prende il posto una se non l'altra. Quindi il vero lavoro sarebbe intanto di mettere in accordo tutte queste parti di noi che a volte sorgono, a volte non sorgono, sono in conflitto tra di loro, no? Io ho ripreso a fare lavoro sulle subpersonalità proprio in questo periodo, quindi mi trovate caldo su questo tema, sto affrontando un altro percorso ancora, in cui chiaramente si finisce lì, perché nella psicologia buddista è molto chiaro, nella psicologia indiana è molto chiara questa cosa, anche in tante altre vie che ho praticato, e adesso che sto facendo quest'altra via sono tornate fuori, quindi mi si sta rinverdendo tutta questa situazione, in effetti è così. Quindi se viene fuori il tuo te sabotatore, ci stai e gli auguri metta. Bene, sono contento per il lavoro e ora facciamo l'ultima pratica, e per l'ultima pratica, siamo perfettamente in linea, alziamo un po' l'asticella. Allora dovreste provare, se riuscite, perché i cuscini lì non ne vedo, o se avete un cuscino o qualcosa da mettere a un metro davanti a voi. Fate questa cosa? Un cuscino di quelli che avete, o una maglia, sì, ecco, una cosa così, infatti, proprio. Non troppo distante. Quindi andate a ridere. Immagino. Ecco, quella è troppo distante, mettila un po' più vicina. Maria, quella tua, Maria, più vicina. un pochino più vicina. No, beh, più lontano possibile sempre, se ho capito bene. Un pochino più vicina. Ecco, in quest'ultima pratica useremo mudita, sarà mudita la nostra capsula, quindi la gioia con partecipe. Volevo leggervi solamente una cosa che prima mi è venuta in mente proprio venendo qua. Secondo voi qual è il luogo, anche se non è proprio un luogo, sì beh è un luogo, il luogo dove sarebbe opportuno durante la giornata praticare il Brahmavihara? C'è un luogo nella nostra vita che è il più adatto, secondo me, il più adatto per tanti motivi. Il bosco? Non ci vai mai nel bosco. Non dirmi il bagno. No. La cantina. No. Io vivo nel bosco. Infatti voglio invitarvi se volete. Certo. Ma qual è il luogo della nostra vita dove dovremmo provare a praticare? La strada, quando siamo in auto? Mamma mia. Quanto spesso ci scatta la reattività in auto? Mamma mia. Troppo. No, ecco. Poi penso, no. Troppo. È una bella prova, perché venendo in qua mi bocciano. Se passa uno al soldo. Ma no, venendo in qua, siccome hanno appena aperto il Ponte Nuovo e c'era un casino della Madonna, in meno di un chilometro mi ha tagliato la strada per entrare dentro 4 o 5 macchine. E immediatamente anche in me è scattata la reattività, e poi la reattività in me ormai fa scattare il contro, no? E allora mi sono rimesso in una certa cavernetta, cioè, e sono rimasto tranquillo, però ho detto, beh, questa gliela devo dire perché... Hai fatto bene. No, ma a dire la verità non è farina del mio sacco, perché mi era già stato detto, che riporto cose di alcuni miei insegnanti, però mi era proprio andata nel dimenticatoio. Però se guidate, non so, magari qualcuno di voi non guida mai, o usa i mezzi pubblici, quindi, ma anche nei mezzi pubblici forse. Mentre se andate per strada secondo me è proprio un grande esame. Non dico che possa tu essere in pace, ma almeno non possa tu schiantarti la prossima tuba. Arriva proprio. Possa tu schiantarti la prossima tuba, non è, capito? Siamo proprio agli antipodi. Quindi magari. Io guido ambulanze, quando sono in emergenza qualcuno gli dico, ascolta, prossimo giro prendo te. Prossimo giro vado a te. Ecco, quindi insomma. Secondo me è tutto un atteggiamento cui tu ti poni, le aspettative. Ma io spero di avervi messo un seme e che domani andando in macchina, se non altro, vi faccia sorridere il fatto che al primo che vi taglia la strada si innesca subito questa idea, vorrei avere un bazooka davanti. Posso tu essere felice? Felice dentro il fosso. Ecco. Poveretto. No, ma si innescano tutti questi meccanismi. La strada, secondo me, è una grandissima palestra spirituale. Cioè, se uno mi dovesse dire dove è che devo andare in quel. No, non deve andare in nessuna parte, deve andare in un monastero. Sali in macchina e gira per la tua città. E lì vedi la tua reattività. E lavori lì. Sono degli orari proprio, ti mettono la prova. Sembra impossibile, eh? Abbiamo tutto, abbiamo anche le prove. Cioè, come uno ieri che ero a zona del Mauto, ma uno l'altro, e che c'è il ponte a San Benedetto, poi non so se sapete dove senti, che c'è stretto, che c'è il camion, che c'è un camion che passa a un chilometro, 2 chilometri prima, che c'è i cartelli. Oltre per 8 tonnellate e se stretto 2,30 questo cambio qua e va avanti, mi rispondo io, va avanti, ho detto dai se girasse,